pillole di movimento è una campagna di promozione dell'attività fisica rivolta ai sedentari, quindi a chi non si muove per niente o a chi non si muove abbastanza. Permette ai cittadini di svolgere gratuitamente un mese in palestra o in piscina in una delle società sportive che aderiscono al progetto insieme a WISP. All'interno della scatola c'è un bugiardino con tutte le indicazioni e i contatti per sapere le attività, gli orari e dove si svolgono i corsi. Sempre più gente si affaccia e insomma si avvicina al progetto. Sì, davvero riscuote molto interesse e una buona parte di cittadini poi svolge veramente il mese gratuito, ma tanti si interessano a capire che cos'è, e anche questo ha un significato, perché significa comunque sensibilizzare al movimento le persone che hanno la possibilità di fare il mese gratuito, oppure hanno comunque la possibilità di porsi la domanda: mi devo muovere? Sì, e quindi questo è uno stimolo. Come funziona per chi vuole partecipare? Chiedo se ci sono delle novità per questa edizione. Allora, partecipare è molto semplice. Sul sito WISP Bologna, così come sul sito dei partner che aderiscono al progetto, c'è l'elenco delle 50 farmacie a Bologna e provincia che aderiscono al progetto. I cittadini si devono recare nelle farmacie, dove gratuitamente riceveranno la scatola di pillole. All'interno c'è un bugiardino che ricorda quello del medicinale, ma non lo è, questa è la medicina naturale, e all'interno del bugiardino ci sono tutte le indicazioni per recarsi o contattare le palestre, le piscine e venire a conoscenza degli orari e delle attività che si possono fare con le pillole di movimento.